cattivi che hanno fatto la guerra, per carità. Comunque fa, ti ho dimostrato che sono tutti perfettamente funzionanti, tutti, dal primo fino all'ultimo, vanno bene tutti. Adesso domani devo ritirare un pace base, che è simile al Pony, roba simile a quello tuo, mi pare che abbia le bande verticali lo stesso, però anche che ce ne Pony e pace. Non ce l'ho io il patch, però molto più grande del Pony di quello che, che stai parlando tu, che c'ha tre strumentini e l'orologio. Esatto, quello lì sì, domani lo ritiro. Non me l'avevi fatto prendere tu, il primo base che ho preso me l'avevi fatto prendere tu, 110 euro. È grande, come ritrasmissione, una bomba, quello col turner, infatti tutti mi dicevano andava alla grande, adesso domani se ne voglia lo faccio girare. E poi ne ho tirato fuori questo, quello che ha dato maestrale, dalla 48 Plus, è bellino, non pensavo ci avesse tutte quelle funzioni, c'ha un sacco di funzioni col baracchino. Sì, è così, non ne ho bisogno di farne più tre, io già ce li accutti, lo faccio andare con l'MB più 5, così che va bene, avanti presto. Buonasera Claudio Lamura, sono ben ascoltato, sento appena rialternato io, non so se la sentono anche gli altri. Allora io faccio girare per Franco, poi vedi tu per Gianni, per Gianni Obrafetta, Gianni Obrafetta, Roberto, io mi assento 2 secondi, avanti Franco. Capa, saluto Gianni che è appena entrato, saluto anche Claudio che non so se se ne ascolta perché qui arriva un po' più come si può dire. Avanti Luca. Ciao Gianni, ciao Roberto, ciao Claudio, buonasera, salutoni. Avanti già. Ciao Luca, buonasera anche a te. Rilascerei tutto quanto l'Ubroffetta, tu fa girare. Ciao Chiodo, buonasera, ben ascoltato, ti sento anche io pio per i miei motivi tecnici, perché ho cambiato l'antenna, perché l'altra è in riparazione, comunque riesco ad ascoltarti. Buonasera e ben entrato, avanti. Ciao Chiodo Ruggito, scusa se non ti ho salutato prima, mi è sfuggito. Kappa, dai. Mi hai sentito cordialità, non so che apparato stai usando adesso, così poi me lo fai sapere, va? Sì, ci sono ancora, ben sentito anche a te Claudio, saluto anche a Luca, l'ho sentito di sfuggita. Confermo quello che ha detto Claudio, comunque il segnale è buono, tuo 9 più 15, però c'è un'alternata leggera sotto in sottofondo, ok. Poi volevo chiedere un'informazione a Franco, che tipo di apparato sta utilizzando, solo un attimino, e poi riprende Claudio. Sì, vabbè, sto usando quelle valvolare Jamtronic, anni 70, valvolare, comunque dai. Prova a buscare un bel mic, sono sicuro che c'è la grande quella radio. Già si sente discretamente così col microfono da palmo, figuriamoci come uscirà mettendo un bel microfono. E Claudio Lamuro, svolta il mic e mi dici tu se ti stai aiutando o se sei pulito. Facciamo riprendere la torre di controllo, avanti Claudio, ci ha sentato Luca, vai a te. A tutti i forti, siete, beati voi, tutti i forti. Qua parte Claudio Sparviero, di quella zona lì più forte è Luca, l'ho sempre detto, non si sa bagozza, è quello che arriva più forte. Sei sicuro? E Antonello naturalmente, io parlo di quelli lontani. Luca, dove sei? A casa di Tandi di Marina o a casa di Tavano? La mamma. Io quando ti arrivo Roberto? 9:30, Luca 9:30 sparcato, però la radio di Luca è sempre stata fortissima, da quando cominciato che c'è un baracchinetto relativamente, nel senso un veicolare, rispetto a molti altri che hanno microfoni un pochettino più potenti. Il mio è basso come radio. No, va bene, però quella di Luca, forse lui, le corde vocali sue, è bella, squillante e piena, a me è sempre piaciuta, no, non perché c'è lui davanti, l'ho sempre vantata, una bella modulazione. Cos'è il Typhoon Luca quello? No, 3009, Superstar. Anche questa allora è bella, tipo il Typhoon, si assomiglia. Ok, c'è Antonello Pompugno, lo facciamo andare avanti. Avanti a te che poi rilascerà il mic a Franco e a Claudio Di Muro. Saluto a tutti comunque, là, sta dove 3009, per tutto brucia. 20 anni, goduto. Sì, tutto a fischi, Antonio, non si capisce niente. Sto a fischi, sono, non è possibile. Ho detto, pensate con tutti, su salute, per il nome. Va bene adesso? Adesso va bene, ok. Riprende Franco Binario che passerà il mic a Claudio Di Muro. Salvate a te, Franco. Sì, capa, ciao Alessio. Volevo sapere se mi ascolta, vediamo un po' se mi ascolta lì a uno. Chiodo, mi ascolti? Avanti il mic. Fra, ma attaccato. No, sto usando il valvolare, questo c'ha 4 watt, dai, scarti. Quindi pure non mi ascolta, confermate? Io non ti ascolto bene in radio, ti ascolto come se fossi fuori. Può essere, boh, questo può farlo ascoltare, così va meglio? No, no, vabbè, quasi che dipende da me. Io ti ascolto tutti bene, e a te ti ascolto un po'. Sì, come quando avessi lineare. No, sto uscendo con 4 watt, dai, rimetto la baracchina normale, dai. Prendete, avanti, Claudio. L'hai ascoltato Claudio Amuroso a Franco? Zona bassa, vicino alla stazione con le zone lì, dai, diciamo, parte bassa di Sassari, e sta uscendo con un valvolare, pochi watt, un paio di watt, ha detto 3-4 watt, non di più. No, io già ne lo ascolto bene, ripeto, è una radio un po' ricca di acuti, però è bella, piace. Se ci mette un bel microfono da tavolo sono sicuro che c'è, perché i valvolari hanno una modulazione molto naturale, molto più calda come rispetto ai baracchini che utilizzano i transistor. Ok, c'era anche Gianni Lombroffetta, lo facciamo venire avanti, avanti per te. Eia. Stavo dicendo per Franco e Gianni e Luca che ieri mentre stavo guardando un film di Spike Lee all'interno di una stazione mobile della polizia a New York, praticamente alle spalle di Denzel Washington c'era un 3009 acceso. L'ho riconosciuto subito, guarda, proprio l'ho sgamato al volo, proprio ce l'aveva alle spalle poggiato praticamente insieme ad altre radio e c'era un 3009 acceso ed era sul canale 19. Tutti ne parlano bene del 3009 perché ha un circuito normale, non c'ha quei microcircuiti, c'ha un circuito PLL normale. Va bene, è una bella parata, c'è anche una bella radio, no? Perché ce l'ho io, però tutti lo vantano, anche quelli di vecchia era che l'hanno avuto, ce l'hanno ancora, dice io non l'ho dato mai questo qua, ce l'ho tanti anni. Gianni, un profeta, come ricordi quel film dei camionisti che erano tutti col baracchino, anche donne, come si chiamava quel film? Anatra di Roma. Anatra di Roma, com'era il titolo del film? Guarda, l'avranno trasmesso qualche settimana fa, adesso non mi ricordo se su Iris o roba del genere, comunque vabbè, stavano guardando in cucina e l'ho visto con la coda dell'occhio, ho messo con quel carri lì, sì, roba anni 70 credo, fine anni 70, primi anni 80, il titolo non me lo ricordo. Che tutto il film è improntato su dei camionisti che stanno col baracchino, dura 2 ore di film e sono tutti, cioè è andata di gomma, così l'interprete principale, non mi ricordo chi era l'attore, diamolo cerco su internet stasera se c'è qualche spezzone, è tutto sui baracchini, ecco. Ma che c'era? Anche Chiodo Arrugini? Eia. Sono rientrato, eccomi qua, bimbo batte che ballate. Ciao, Claudio, saluto niente a te. Ciao, Russo. Antone, tu parli un CG? Donna, non è possibile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova un po'. Attaccato, sì. Non staccato, sono liscio, mi, non hai capito, col 3009. C'è un rischio di innesco, quello fa. E il microfono, aspetta che attacco l'altro, dai, si alerta, 2 secondi. Sembra che c'è quella batteria a scarica, quando distorce perché non c'è come si chiama, corrente in abbondanza. Perché a momenti c'è bene, poi di colpo tutto a frusci. Facciamo riprendere a Luca dal monte, avanti Luca. Allora, facciamo un regalo a Pomponi, un baracchino nuovo e microfono nuovo per Natale, così non fischia più. Io ne ho 7 baracchini, cosa mi regali qua? Guarda adesso va un po'. Dai, ma tutti gli altri, anche a papà non riesci a usarlo. Adesso vedi che esco male, non è possibile. Finita. Sto usando il saletto adesso. Adesso sto facendo bene. Meno male, visto Sono andato sul originale, saletta, quindi. Ti volevo dire, vabbè, ho trovato una cosa, Francesco Branca, già lo conosci, sì? Chi ti ha detto Francesco Branca? Quello che vendeva a Torre Cambi via Milano. Allora, sta vendendo roba di magazzino, sta vendendo, hai capito? Se vuoi ti do il numero e così se ti serve qualche cosa te lo prendi. Ma roba di che cosa? Di carrozzeria? Carrozzeria, roba meccanica, tutto. Questa roba ci è venduto già tutto tempo fa, perché me l'hanno chiesto da poco gente, ha detto mi branca c'aveva qualcosa, ma non è la moto uno di quelli. Non è moto nessuno, non ti preoccupare, Vittorio è già ancora vivo. Mi ha dato il biglietto da visita stamattina, anzi non so, stasera. E se vuoi numero del telefono te lo do, così di telefono, se ti serve con qualcosa di telefono prima, poi lui c'ha tutta la roba dalla parte, hai capito? Se ti serve qualcosa di qualsiasi parola là. Non la sapessi, da qualche volta che facciamo qualche macchina all'epoca può capitare, a tempo fa me l'avevano chiesto qualche cosa, ho detto forse era branca lo trovi, già ti faccio sapere. Ok, facciamo riprendere a Claudio Ramuro e poi farà girare per Franco e poi per Lombrofetta. Sì, capa Claudio, vieni un po' se mi ascolti adesso, che ho cambiato apparecchio. Che barrata, ma già sei 9, già, gassate con 5, ma sei attaccato. Aspetta, non sento Claudio, se mi ascolta, scusate. Claudio, mi ascolti adesso? Ma Claudio io? No, Claudio di dove, di Muros? No, sono Franco, quello che prima stava provando quel valvolare che non mi ascoltavi, qui ho qualche watt in più, dai. A te ancora le macchine, poi fai girare. Ok, ti ringrazio, dai. Avanti, chi tocca adesso? Spera un po', Claudio, riprendi tu. Mi sembra abbastanza... Ma la madre, si è fatto... No, non sono io. Claudio. Si è aumentato di segnale la retta, se 9 più 20 qua, figurati, fra. E a un certo punto va bene, va veramente bene, è barrato. La stai pompando poco già adesso. Ho cambiato antenna o ho cambiato quella giù di sotto? Beh, chiedo scusa ancora, no, beh, l'altro usciva con 4 watt, l'antenna è sempre la stessa, questo è, sto pilotando con 4 watt, piloto un Alfa Lima, dai. Da 600. No, poco più di 100 saranno. Sì, sì, di là tutti. Oh, questo mi segna qua, questo wattmetro. La segnale 5 è Santiago 920, non è possibile, guarda. Guarda, stasera ho visto a cosa, Gianni, ho visto Giuseppe Bandiera Gialla sotto casa mia, figurati, al bar. C'ha tutto, c'ha. Ha giocato a piazzati baracchino così fai schiattare un po' di gente, ho detto, da dove abiti. Lo dico di Giuseppe Bandiera Gialla. Nominativo sì, come persona nomadi. Comunque fra se c'è non va bene adesso e anche di radio. Attenzione che va ruggito, ma non è un segnale per vedere come arrivo io. Questo è l'Intec da base, quello che c'ha due strumenti. Quello mi era attaccato, c'hai? Sì, sì, sì, sono attaccato, lo dico, c'è tranquillamente, non è che... Stavo provando a vedere con 100 watt se arrivavo più forte oppure lo stesso segnale di Franco. No, fai da 9.15 a 9.20. Ehi, fallo entrare a bandiera gialla, usci più da rinforzo che ha pigliato quando va a vedere la baracchino da me. Fallo entrare, Paolo. Dimmi, ho detto Claudio Spalviero che ha attaccato il baracchino. Cioè, già lo avevo detto stasera, ho detto... Piazzati il baracchino, a me l'ho detto, entri di nuovo e parli un po'. Certo, lo conosco. Ma guarda, un bel radio, perché un ragazzo ci fa molto grande, capito? Io qui, io radio, ma chi c'è? Ma dove c'è? Con chi c'è? C'è per c'è? Dove stai parlando? No, dove, bene, alto, alto, ho capito, schiaccia la portante. Anche chi c'ha due io, non ti dia benissimo come te giace. E già là ci ha venduto tutto, e fanno tutti così, no? Prima ti provocano, poi ci vendono tutto. No, sei sposato, poi secondo te cazzettava baracchino. Poi sei sposato con una ragazza di fuori, quindi a un certo punto cosa lo sai? Quindi quando uno è geloso della moglie e cosa del genere, capito? Succede sempre così. No, quanti seguivo quando lo mettevo a Valacchino? Se non c'è la moglie, ma c'è detto la puttana, se non c'è la moglie. Se l'ho preso la moglie io. Boh, che discorso di fare a me. Ora sta capito questo buio. Boh, fate un tampone ogni tanto, che avanti quadrato, ci sei. Che fate a questa? La tua volta che è. Che non succede che è fidanzato poi ci sono i combine. Il discorso è quello, capito? Siccome lui ha sposato una ragazza che non è italiana, quindi l'istinto ha preso e ha mollato il baracchino immediatamente. Non è che l'abbia mollato per altre cose. Già te lo ricordi. Ci mancherebbe, cazzo, tutti fanno così, quando anche le ragazze, una volta sono sposate, boh, il baracchino ha dimenticato. Guarda, tu sai che baracchino c'ho io, uno dei vintage che c'ho io, ok? E il 140 che c'ho io, se te lo dico apertamente, tanto non me ne frega niente, il 140 che c'ho io, il baracchino base che c'ho io, uno dei base, te lo dico qual è, sai di chi è? Di Daniela, quella che abitava attaccata a me, anche Daniela si è sposata, però l'antenna è sempre lì. Ma ecco qua, il giorno che sto un po' da babbo qui e là, vai in vacanza, pronto, vieni a casa, prendi il baracchino tuo e te lo riattacchi. Capito, c'è sempre l'antenna, però non parla più perché dov'è, non può mettere l'antenna, altrimenti Daniela ce l'avrebbe già messo il baracchino, perché ce li ho tutte e due io le radio, figurati, c'ho la radio, c'ho l'antenna della macchina, c'ho un'altra antenna che mi ha dato tutto a me, la giù a due di là e mi ha portato via tutto. Però se Daniela dovesse tornare dal padre qua vicino a casa mia, che c'è ancora la Mantova, cioè non è la Mantova, una quella autoradiale, vabbè, adesso mi sembra che ne ha 3 o 4 radiali, no? Ma il baracchino se lo ripiazza, tranquilla, non è detto che perché si è sposata, no, dove è andata, dove si è trasferita, dove ha comprato casa, non c'è la possibilità di montare l'antenna, solo per quello, quindi non è un discorso questo. Poi, anche se ha sposato una continentale, una romena, una polacca, cosa c'entra? Non è quello il discorso. Avanti i muros. Non me lo ricordo il modello, già ti mando la foto quando arriva. La prossima settimana, forse a fine settimana, arriva oggi così, lunedì. Sì, l'ho ordinato stamattina, quindi molto probabilmente prima di fine settimana arriva, dai. Grazie del Mike. No, stavo dicendo Antone, che fine ha fatto Fabio? Fabio è sparito. Questo delle donne. No, ho capito, sparito? Questo delle donne, ho detto, si è fidanzato, quindi non entra da anch'io. Ah, pure lui. Vabbè, il periodo iniziale è così, sempre quando si conosce qualcosa di nuovo, qualche tappo nuovo da mettere, dai, sto scherzando naturalmente. Ok, volevo vedere Claudio se il pace è uguale a quello che ho io, quello base, quello che c'è il frontale in alluminio. Dovrebbe essere uguale a quello lì, non lo so, non me ne ricordo perché tra l'altro ho cancellato un po' di foto che era pieno, perché mi stava la memoria piena, quindi dovrei aver cancellato anche quello. Mandare la foto, ma te la faccio vedere, ma dovrebbe arrivare oggi, lunedì, non è già tutta mattina, quindi penso 3 giorni, forse lunedì, se è partito giovedì, martedì, mercoledì o giovedì dovrebbe essere qua, dai. Sì, ok, poi me lo fai vedere. Ok, facciamo riprendere al profeta che è da parecchio in bianco, nel senso in stand by, e poi passerà il mic a Franco. Avanti a te Gianni Urbofetta. Tutti attaccati siete, quello 100, 150, 200, domani mi sarà bingo, avanti fra. Io ho anche la marmitta a Pinasco, con i pallini d'acciaio dentro. La volevo chiedere a Claudio, è il primo apparato che c'è in alto, cos'è, il Pony? Confermi? Sì, quello tutto cromato, quello è il Pony, sotto c'è l'amplificatore vintage, 27, il G27B che è costruito in Italia, viola funziona anche quello, però non lo attacco perché va a volare, consuma una barca di benzina. Poi c'è il DAC al centro, c'è l'Intec 3104, c'è il 294 Intec, vai no Intec, poi c'è lo Standard, poi c'è l'Elbex e poi domani settimana arriverà questo approccio. È il microfono a tavolo, quello lì che ti è collegato, cos'è? Che microfono è? Un microfono dello gain quinto da tavolo, che improbabile non ce l'ha nessuno. Nessuno. Forse Walter ce l'ha quel microfono, ma non è un microfono molto molto commerciale. Poi se ti mando la foto di un altro microfono ti metti a piangere, perché c'è un microfono sempre da tavolo del principio son base, del 5082 base, che anche quello è improbabile, tutto in ferro, pesantissimo, tutto cromato. No, mi interessava il primo che non lo conoscevo, si assomiglia alla capsula l'IMB, però è tutta un'altra cosa, poi si vede che è un altro microfono. Poi ce n'è uno parcheggiato sulla sinistra, il microfono, giusto? Quello è il microfono della Precision, quello regolabile in altezza, ci mette anche dritto praticamente, con la punta a soffitto, si abbassa tutto, si solleva, c'è la regolazione dei toni, la regolazione del mic e poi c'è un tastino, non so se lo vedi, rosso, dove tu schiacci, c'è un buchettino, metti le cuffie lì, tu immaginate che microfono, metti le cuffie attaccate, c'è il forettino jack, tu inserisci le cuffie lì, inserisci quel pulsantino e ti fai la parla ascolta, ascolti solo il microfono come sta andando. No cavo, quello non lo vedo, vedo che lo snodo ci vede, che è regolabile in verticale, cioè lo puoi mettere in verticale, poi vedo un cursore, penso che c'è una regolazione quella lì, o è il pulsante della portante, no, forse una regolazione quella lì, sì, una regolazione. Dai, riprendi e fai girare, bella storia. No, è bella come l'ho fatta, tornata per quello, per farti vedere cosa ho fatto, capito? Cioè, ho separato una base che è enorme, grandissima, è più di 2 metri, ma si può anche sollevare in altezza perché ho il ripiano anche qui adesso, vedo com'è. Investire su quelle cose lì e rimettermi nuovamente in carreggiata con i vintage e poi l'altra base che è un'altra cosa, questa lo sto trasmettendo, ho visto una scrivania a parte, una base a parte con solo HF, linee complete HF, VHF, UHF, basta. E anche qua ci sono 4 MC60 se l'hai visto e un SM20. Sì, ho visto tutta la schiera. Oh, bella. Ben messi, belli apparati. C'è il DAC che è un mostro, che sembra un grattacielo sempre. Dai, Luca, ci sei? Sì, sono sempre qua. Mi sto ascoltando. Mi sto guardando un po' Facebook, insomma, un po' la TV, un po' il computer. E niente, va giro in gloria. Adesso passo dall'altra parte, dai, come ti passo un pochino col DAC che l'ho lasciato acceso, che è un paio di settimane che non lo uso, riprendi il doppio Roma. E comunque io adesso sto facendo con 3,5 watt, va, come mi ascolti Buros, con 3,5 watt sono adesso. A me come mi ascolti? Una buona antenna, ho messo la Turbo 2001 che è una signora antenna. Allora, io adesso sono col DAC, modulati siamo intorno ai 15 watt, 10 riportante e 15 modulati, come mi ascolti? Ma se l'hai compreso lunga, sento biru, il telefono. Biru. Il telefono io. Come mi ascolti, Cla? E il televisore nel salone c'è, se chiudo la porta rimbomba troppo. DAC con l'MB+5, capito? DAC MB+5, va bene. Ottimo per la truppa. Poi gli altri li ho fatti sentire. Sì, quello che ti ho fatto sentire prima era il 294 dell'Inuit col 747 collegato. Una settantina di watt, 70 watt, ma come vedi io posso andare anche con 5-10 watt, non c'è problema. Il segnale è molto molto alto perché l'altezza che ho è quella, non c'è niente da fare. Il cambio per Gianni Robrofetta, avanti Gian. Ehi, nel mentre mi sto mangiando un panino, mi sono dimenticato di salutare Antonello poco fa, buonasera. E niente, rilancio rilascio il mic, sennò mi si fa rimosso. Allora ti fa. Mangia, mangia, è fatti grande. Sì, Claudio, bella questa, mi piace questa modulazione, bella calda. Avanti, Claudio. E questo, guardate che te l'ho detto, appena lo accendi devi lasciarlo un pochino acceso, perché essendo valvolare, questo è tutto a valvole, stadio finale a valvole, è tutto a valvole, e quindi ha bisogno di stare qualche minuto acceso, però poi ha una modulazione splendida. Avanti, Robert, riprendi. Un attimo, metto la telefono. Io qua su questo valvolare non lo posso collegare il mic in questo da tavolo, perché le connessioni sono invertite, non capisco perché, anche se è uguale, l'attacco è a quattro poi, è classico, però è stato invertito. Sto uscendo, sì. Ehi, ehi, mi stavo già preoccupando. Stai uscendo, se mi hai chiamato stavo cambiando appartamento. No, mi stavo rilanciato. Questo già esce con meno watt, quindi vedevo lo smith che era più basso, che l'altro lo sbatte a fondo scala la lancetta, invece questo l'ho portato a 4 watt, quindi rimane sul 9 con 8-9 con picchi di modulazione a 9-10-9-20. Sono rientrato io comunque. Non ti ascolto bene però, vabbè. Aspetta, forse ho toccato qualcosa, ho fatto. Guarda adesso, ero un po' messo male. Sì, sì, mi sembravi quasi spostato, dai. No, non mi sono reso conto, ho toccato qualcosa qua. Ok, io comunque non sto usando il solito microfono, c'ho l'altro. Penso che sia più o meno come modulato, magari forse un po' più forte questo. No, esci bene. No, poco fa mi hai chiesto di collegarci un microfono, diciamo, che spinge un po'. Però ci vorrebbe un adattatore, un cavetto, fatto che non voglio cambiare le connessioni, dai. No, la connessione se possibile lasciare stare, che poi lo depresti un domani che devi venderlo oppure devi fare qualcosa di più elegante. Se io dico se possibile è sempre bene fare un adattatore che modificare la connessione. Che svermetto, che baracchino è quello là? È un Gemtronic. Aspetta la sigla, com'è? Che ce l'ho sotto qua, GTX 5000. Sì, GTX 5000, è un 40 canali. Bello, si sente bene. No, vabbè, Zac è uno dei miei preferiti, come baracchini probabilmente è il più bello che c'è secondo me. No, infatti mi ha fatto i complimenti, ottima modulazione, bella, calda, senza fronzoli, proprio come piace a me, dai. Avanti Gianni, doppio room. Gianni non riprende. No, ma sono tutti funzionanti, frate, li ho fatti già sentire. Gli abbinamenti che ho fatto sono tutti MB più 5, poi a parte quelle gain, ancora devo collegare quel Perception che c'ha una capsula ceramica a condensatore che è la fine del mondo, è molto pesante, un ottimo microfono. È inutile avere un'esposizione, una cosa, ho fatto un lavoro, te l'ho già spiegato, di commutazione da una base all'altra, con tutti i cavi che passano nella zoccolatura, io ho la zoccolatura in legno un po' grossa, quindi ci vanno all'interno, cioè fatta una cosa fatta bene, se il lavoro lo fai lo devi fare bene, fra, se puoi permetterli lì, non accenderli, non usarli e rovinarsi, allora tanto vale che li dai, ma io tutte quelle che prendo funzionanti e ogni radio ho deciso di mettere il microfono a tavolo, ce ne stanno ancora minimo 3, 4, 5 di microfoni a tavolo, perché ognuno deve avere il suo microfono, il suo abbinamento, deve uscire bene come tutte le radio, io non li voglio Mondezza, se poi Mondezza anda all'autoparco, già non è Mondezza, avanti a chi tocca, cambio. Vabbè, riprendo io, scusate un attimo, io devo lasciarvi, dai, continuate, fate un bel corso, divertitevi, io devo uscire, ciao, facciamo il riepilogo, ciao Claudio Sparvero, Claudio Ramuro su Doppio Rum, Gianni Profetta e l'altro che c'era, Luca e Franco, se non mi sono dimenticato altri, credo che siano solo questi, se no anche gli eventuali amici in ascolto, saluto anche quelli, io faccio corretti, ci sentiamo magari domani se coincide, ciao ciao a tutti. Certo, ti sei fidanzato, dai, ogni sera alle 7:30 te ne vai, va bene. Ciao da me. Buono, non risponde, che te ci acconsente, vai fra. È già partito, vai. Perché si è fidanzato, capito, tutte le sere a quest'ora se ne va, quindi si è fidanzato. Avanti Muros, quindi ti piace questa modulazione DAC Mark 10? Beh, come visuale, come costo, come tutto, è chiaro che è il miglior vintage in assoluto che della mia piccola collezione, però sono propenso a portarmi dentro. A me mi piace molto il Simba, lo sto cercando, il Simba SSB50, che è leggermente più piccolo dell'Hack, ma io l'ho avuto quando ero a Porto Tosa a casa di mia madre. Ti dico che è una bellissima radio, mi piace tantissimo, lo sto cercando, ho contattato un collezionista che conosco di Latina, che gli avevo dato una serie di microfoni miei, mi pare una ventina di microfoni serie per serie, e mi ha detto: guarda, mi metto in movimento, giusto, lo faccio per te, perché mi ha dato alcune cose molto belle, molto interessanti, mi metto in moto, se te lo trovo ti avviso. E lo sto cercando, capito, perché è una bellissima radio, è quella sicuro che me la porto a casa. Avanti Gianni Doppio Rum, riprendi Gianni al telefono intanto, dai, vai Franco, riprendi. Sono le prese con una cover che mi ha dato Anna, mia moglie, gli ha attaccato quegli affarini alla cover per appoggiarlo, no? Per metterlo tipo monitor, per tenerlo in piedi con quel ricatto. Ma c'è un biadesivo che è micidiale, non riesco ad attaccarlo. Perché lei è abituata al lavoro che usano quel biadesivo per attaccare i manifesti dei bizzini? No, sono quelle specie di anelli che praticamente sono adesivi, che li attacchi dietro la cover del telefono oppure sul telefono, e ci infili lì dentro e praticamente tu parli e non ti cade il telefono. In più lo puoi utilizzare come punto d'appoggio per cavalletto. Ah, ho capito, sì. Va bene. Beh ragazzi, è giunta la mia ora, però io mi devo preparare per portare il cane, sta piovendo, per la cronaca, per Gianni Doppio Rum, che anche lui ha il cane, qua sta piovendo a dirotto, però io il cane lo voglio portare, sono già le 8:25, quindi momentaneamente mi allontano dalla radio, ma lascio acceso, appena salgo riprendo, ok? Quindi il cambio per Claudio Di Muros, vai tu e poi vai per Gianni Rubrofetta, in attesa che rientri Doppio Rum, io mi allontano, torno subito, vai Cla. Ciao Claudio, grazie, ben ascoltato, alla prossima, dai, ci sentiamo alle prossimine, come si dice qua, in 27. Sì, mi sono allontanato un attimo nel QTH piccolino, come dice Bulldozer. Bene, dai, alle prossime. Claudio lo stesso è andato a pisciare il cane, come si dice, poi deve pisciare il cane anche Gianni. Insomma, la iata a casa sarà già bacchiata giù. E niente, dai, avanti Fra. Io riprendo subito, dai, vado a portare il cane e poi ritorno, vai Fra. Sì, capa, salutoni Claudio, allora, da Muros, ben sentito, ho capito che devi attaccare un po' di LED lì all'apparato, insomma, stai facendo già l'albero di Natale, l'abbiamo capito. Buon lavoro, buon tutto, divertiti. Avanti, chi c'è rimasto? Dai, Doppio Rum, ero sotto casa tua ieri mattina, no, stamattina. Aspetta un attimo, che saluto a Claudio Di Muros, già, poi così veloce. Ciao Claudio Di Muros, cordialità, saluti a casa e ci sentiamo alle prossime. Vai Doppio Rum. Claudio, se ti può interessare c'è un QTC, le due lucette e quei LED lì ci sono già con le resistenze attaccate su internet, vai, ci sono la bustina, te la vedo a 10 a 10, poi costano 5 euro la bustina, con le resistenze attaccate, avanti, bravo. Lasciatele stare vintage, se no perdono il suo valore, un kit di luce blu. Allora, ragione Claudio, lasciatele, anzi è un bianco che dà più sull'arancione, non è neanche bianco, le smitte sono così, le luci. Sta dicendo Doppio Rum, ero a visita lì alla Meridiana. Ah sì, capito, non mi conosco io quello, dottore, ho capito, il dottor Savis. Sì, però lui ha fatto solo l'accettazione, poi ci ha portato su, dove c'è lo studio, dai, è arrivato un medico del lavoro da Cagliari stamattina, è arrivato infatti un po' in ritardo, ha chiesto scusa, aveva l'appuntamento alle 8, è arrivato verso le 8:20, dai. Ma è opera, se ne vede di Nacca, c'è tutti quanti tutte le ditte, quello della Mombetta, c'ha vigili urbani, c'ha diverse ditte e lavoratori, insomma ne ho un bel, c'è sempre un bel ricerca anche per il tampone. Già. Ma lo sai quanti dipendenti c'è a Ciona in provincia di Sassari? 300, tutti lui ce li ha. Non so, c'è tutte le... sicuramente c'ha i c'è un po' di queste ditte qua. Ce ne sta facendo i soldi. Vabbè, Ciona non è una ditta, è una multinazionale. Non è una ditta così, no. Però tutti, tutti. Capito? Tutti la provincia di Sassari, tutti i dipendenti della provincia di Sassari, sono 300 solo in provincia di Sassari, perché siamo, quando c'ero io eravamo 170 solo a Sassari, fate il conto, quindi, va bene, ma il cane non lo porti? Presto ancora, sono 7 e 20. No, sono le 8 ma ho 20 già, intanto adesso che non sta piovendo, ha smesso di piovere, lo porto io. Non metto, lo stavo dicendo, vabbè, avanti Rubrofè. Adesso non mi ricordo cosa volevo dire io, ogni cazzo. La vecchiaia è carogna, piano piano, avanza, inesorabile. Stavo guardando il meteo e di acqua ne abbiamo anche per la prossima settimana, crocro. Che palle, stamattina sono uscito dal rifornitore di carica, se non arrivo alla pedaletta ci ho messo più di un'ora, aveva un traffico allucinante. Guarda, fra, questo è quel microfono che stavi dicendo tu, questo è il microfono della Gain. No, mi c'è bene, mi piace. È un po' magari la modulazione è diversa dalle altre, cioè, però spingono tutti i microfoni, tutti. Adesso devo collegare, ti ho detto, quello della Precipson perché è fenomenale, ha una capsula ceramica condensatore che deve fare schiattare questi tipi di radio col Mickey Gain, tipo l'Elbex, l'Inuit che c'ha il Mickey Gain, l'Intec, il Galaxy, ma il a proposito di Galaxy, sì, ho sotto mano anche un Galaxy molto bello in provincia di Olbia Tempio, mi devono mandare alcune foto, vediamo se me le mandano, il prezzo è molto interessante, se le foto corrispondono e se funziona bene prendo anche un Galaxy Saturn Echo Base, così lo metto sopra il DAC. Va bene ragazzi, dai, io vado a portare il cane, se ci siete il tempo di farle fare la piscia e torno e sono in radio, a dopo, ciao. Ciao, buona passeggiata. Avanti, muro. No, muro da chiuso. Vedete se c'è Alessio, ci sei. Già, 180 si può comprare il Galaxy. Sì, si può comprare, sì. 200 il valore sicuro. Anzi, adesso lo stava dando anche a 300, 400, l'ho visto, sprezzi esagerati. Però io l'ho pagato 200 sempre, dico la verità. Sì, anche lui ne voleva 200, poi mi ha detto che praticamente non ha il microfono originale, ce l'ha ma non sa dove l'ha messo, e quindi mi ha detto guarda ti tolgo 20 euro, va bene, però la radio è immacolata, è nuova, ti mando le foto, mi ha detto poi già siamo vicini, te la porto, la provi, se funziona bene, va bene, ho detto va bene, io ho già il microfono pronto perché ho quello praticamente che mi hai fatto avere tu, che è connessione Galaxy, perché è del DAC, quindi è connessione, questo che sto usando è connessione Galaxy, il DAC, quindi è già pronto. Microfoni normali tanto io non li uso, c'è o non c'è, non me ne fotti nulla. Va bene, ti volevo chiedere questa cosa, dai, quindi dalle 200 euro siamo al prezzo suo, va bene, vai fra. Sì, no, una bella bici anche il Galaxy, cazzo, che è una bella stazione base, sì, fa la sua bella figura, quindi avrà un altro microfono comunque in ogni caso, sì. No, un microfono, sì, abbinato un altro microfono, però gli ho detto se me lo vuoi dare dammelo, se non mi interessa, 180 euro te lo prendo al volo, le parlate radio sia nuova, efficiente, ma guarda è nuova, poi c'è di mezzo uno che conosco, quindi no, non penso che faccia il furbo, però la provo, non è di Nago, sì, siamo a 100 km, viene, me la porta, la provo, se va bene le due sude, se no piglia si te la butta. Sì, a me piace molto, come ho sempre detto e dirò sempre, il baracchino, perché per me è sempre un baracchino, il Galaxy come base è uno dei più belli in assoluto, e il funzionamento che ha è strepitoso, una bella ricezione, una bella trasmissione, l'abbinamento dei microfoni li prende tutti, quindi bella, mi piace, canali celiaci, ha tutto, quindi la metto sopra il DAC che ha la stessa lunghezza e la stessa larghezza, stessa altezza, no, purtroppo ce ne vogliono due, una sopra l'altro, però come misura è così, lo metto lì sopra e già va bene, e poi il patch lo sposto dove c'è l'Inter, che insomma faccio un po' di spazio, già ce ne stanno in radio. Ok, il cambio per l'Ugrofetta, se ci sia ancora, boh, mi sembra che va chiuso Gianni, non lo so, riprendi tu, se non riprendevo più lungo, io sto scendendo a portare il cane, a dopo, ciao. Venga, eccomi, sì, il Galaxy piace anche a me, sì, una bella radio, sì, vabbè, il DAC non si tocca, no, ma ce ne sono parecchie stazioni base belle, dai. Ha voglia, l'imbarazzo della scelta, i soldi ci vogliono, cash, su dinai, avanti fra. Oh, per farlo sapere a te, se lo vuoi Galaxy, li ho comprati stamattina, mi sono chissi della Duplo. Arrivo, ti piace Nichissi? Ciao Claudio, se non ci sentiamo dopo ritieni salutato, sì, un abbraccio sia a te che al tuo cuore familiare, ok? Avanti Gianni. Comunque Claudio, se te lo dà il microfono normale prendilo, perché è un microfono che esce un bel bene, sembra amplificato, come tu ne ti leggo, ti accorgi manco che è normale il microfono, capito? Va molto bene, è un microfono molto perfetto come radio, se lo trova fatelo dare, lascia perdere il ritiro, ma fatelo dare perché è un bel microfono. Oh Claudio, poi della Berinvella che per freddo mi. La zappaletta mi gioco pulente, berretto, giubbotto lungo, eccetera. No, non ha detto che ce l'ha, non si ricorda dove l'ha messo, ma ce l'ha, no. Ce l'ha. Molto probabilmente dentro qualche scatola, mi ha detto, capito? È peggio di me, quindi già è abbastanza ordinato. Però metto, al momento non se lo ritrova, quindi mi ha tolto 20 euro. Poi quando mi porta il microfono, ma gli loro 20 euro ce le vuole, non me ne ha fatti nulla. Va bene, dai, vado a portare il cane, ragazzi, a dopo non riprendo più. Ciro voi, Gianni lo profetta, dai giù di Tovaggio, lo Galaxy Duplo, senza microfono, capito? Quindi non è che ci puoi parlare vicino, puoi o leccare o sciocchiare. Insomma, come copierà il cane? Ci ha detto che ti piace lo Galaxy a te. Ehi, il Saturn Echo, dico, è una bella radio. Per me è la numero uno in assoluto, lasciando perdere quelle americane come il DAC e come tante altre, però come baracchino base per chi fa CB, per chi lo usa in CB è numero uno, no, non è che lo dico perché io ne ho avuto due, poi non li ho tenuti per questioni di spazio eccetera, allora abitavo sopra al nono piano, avevo una stanza in meno, però adesso che ho lo spazio, questa stanza è la mia, sono propenso a riprenderlo e sicuramente lo riprenderò, perché adesso sono in contatto con questo, ma sicuramente me lo farà avere. Dai, un abbraccio a tutti, grazie fra, contraccambia Anna, contraccambia anche Ilaria, poi ci sentiremo prima di Natale, un abbraccio, riprendi e fai girare. Kappa, col piacere sempre. Sì, poi credo anche che come apparecchio sia abbastanza, sì, che non prenda colpi, confermi doppio rumor. Sì, è selettivo, è molto selettivo. E questo che sto usando adesso, là, vi ringrazio per i complimenti. Vi siete dimenticati di scrivere signor Baracchino. Ma secondo me è meglio una medivella di suo Baracchino. Gianni, aggiungo io, è un signor Baracchino, ma io l'ho sempre detto, è un signor Baracchino. Caffa. Comunque io il 23 vado in quella zona, faccio la strada Olbia a Tempi, il 23. Oh, per andare là, ho capito. Già, magari ci troviamo per strada, vediamo che ti dica. Non lo so, mi ha detto che me lo fa avere, adesso vediamo. Se lo devi provare è un conto, se no io lo sto passando lì e magari si fa trovare in un punto e me lo dà. No, l'aggio di provare già, perché no, non ne voglio buttare via soldi. È una passione che abbiamo già parlato, che è abbastanza costosa. Ho dei le soldi da investire, le sto investendo in queste radio e non me ne voglio pentire. Io quando accendo devo uscire bene, non ne voglio le rotture di balle, capito? Quindi vado io, ti ringrazio. Capo, io quando ero martedì scorso ero a Sottotempio, come si chiama, a Bottigiana, abbiamo fatto un intervento lì. A quanto pare c'è un camion forse che ha urtato una travata metallica, un ponte che sopra dove passa la ferrovia. E qui adesso abbiamo tutto disarmato, dobbiamo portare via, controllarlo, verificare tutte le saldature, sabbiarlo, verniciarlo e poi lo ripiazzeranno, va. Oh, a volte lo fanno anche sul posto, i modiniti lavorano anche sul posto. Cappadà. No, beh, io devo andare a Santiago Nuovo, lì. Qui devo passare per portare. Sì, cosa fatti? Da te più passi? No, faccio la strada di Nuovo, no, faccio Urbia, prima di entrare a Urbia, sulla destra c'è la strada per Nuovo. Ma lui deve andare a Tempio, mi sembra, a prendere la radio. A Tempio? No, ha detto la strada Urbia... Ah, ho capito male, io ho capito la zona Tempio, là. Che ci è rimasto? Alessio non ha più risposto, vero, giusto? No, Alessio dovrebbe essere nato. C'è ancora Lucrezia. Lucrezia a Burgia, va. Chi è che sta facendo male? Hola, hola, 1, 2, 3. Chi è? Ora, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. C'è uno che da Santiago 5 arriva con picchi positivi fino a 9.20. Non so chi sia, avanti, chi vuole entrare? Hola, hola, hola, Coca-Cola. Ma chi è? Ma esce proprio tutto di, come si dice, di modulazione proprio, è mostruoso. Allora, giovedì manca l'acqua dalle 9 alle 3 e venerdì dalle 22 alle 5 del giorno successivo. Potabilizzatore di Trunco Reale, quindi attenzione a leva. Ma a te la sacca, a me no. Ma salva, io ce la tocco là. No, a me non la staccano perché sanno che io lavoravo lì, capito, quindi non me la staccano. Ah, ecco, allora, zone interessate, Lufangazzo, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Aizetta, no, è comunicato, allora, Centro Storico, Montevasello Lombardo, Sacro Cuore, Santa Maria di Pisa, La Tenoccia, Porcellana, Piandana, e poi la parte alta, Lufangazzo, San Paolo, San Giuseppe, Patapin, Patiosca, Montevasello, Sassanidio, Montefurre, Mare Pedrosa. Mano Carbonati, però, noi siamo da Monte Oro per via Milano c'è il partitore, quindi Eva non ne manca, no? Bene, allora sto facendo un comunicato qua insomma, dei lavori, dai. Chi è, avanti? Già lo so io chi è, dai, non c'è problema, già lo so io già chi è. Avanti, fra, riprendi, dai, io sono qua ancora, già, sono qua comunque, dai, non c'è problema, sono qua. E io riprendo e vi saluto che qui c'è da preparare la cena. Dai, un abbraccio a tutti e alle prossimine. Ok, vediamo un po' se più tardi riprendo, ma non credo. Quindi vi saluto tutti cordialmente. Avanti Claudio. Ciao, un abbraccio a te e famiglia e poi già ci aggiorniamo col telefono. Vai do Perù. Ciao, ci sentiamo, dai, buona serata e buona carica quando la fai. Dai, roba buona, mi raccomando. Aspetta che forse c'è un amicone, avanti chi ha salutato. Ok, ciao Franco, stai chiudendo, adesso sono a debatto io e tu stai andando via, va bene. Ci sentiamo alle prossime, grazie comunque per averti sentito almeno dei saluti. Ciao Franco, alle prossime, dai, riprendi pure. Cappa, vai, l'importante è sentirci anche se per poco, purtroppo adesso devo andare. Comunque mi fa piacere sempre ascoltare la tua voce. Un abbraccio grande a te e famiglia, riprendi ancora e curati per me. Ok, ciao di nuovo Fra, ci sentiamo prossimamente, spero presto. Avanti Gianni, buona sera a tutti, dai. Ciao Giulio, io stavo per andare via, perché l'unica già allora è portare giù il carro, se no poi piove tutto quanto, vai. Ne approfitto per salutarvi, io stavo andando via, Giulio, mi dispiace ma devo andare. Mi dispiace, devo andare. Ok, va bene, non fa niente, già ci mancherebbe, sono io che sono arrivato un po' tardi. La poc'anzi era un PMR con Antonello, ma poi Antonello si è assentato, dunque io mi sono allontanato lo stesso, per cui adesso stiamo rientrando qua. Io gli ho dato il Constat 25B valvolare e adesso sono disfatto anche di quello. Adesso fra un paio di giorni ne darò via qualche altro, così almeno eliminiamo un po' di apparecchiature qua, che non me ne faccio proprio niente. Mi sembra che ne ho dato via già 4 o 5 in tutto. Vabbè, comunque, va bene così. Ne prendi pure, se devi andare ci salutiamo allora già. Hai dato qua a Sassari? Sì, l'ho dato, però finisce a Cagliari. Finisce a Cagliari. Mi è rimasto solamente quello che non funziona, perché ne avevo due, uno funzionava benissimo e l'altro era pezzo di ricambio e mi ha fatto un po' incavolare quello, e allora non glielo ho dato, solo glielo stavo regalando. Però non mi importa niente, tanto prima o poi glielo regalo anche quello, non me lo posso via, oppure lo butto via, intanto quello non è funzionante. Va bene, dai, a me non mi piacciono quelli di base, non mi piacciono, la verità, gli unici baracchini di base che mi piacciono sono due. Il Constant è stato un ecco e il DAC, poi tutti i razzi per me sono nulla. Ma di quelli che ho io? No, beh, io ne ho preso altri, c'ho il Pony, grande base, 294 Inuit, poi adesso in settimana prenderò un patch base, lo stesso che ho avuto, molto bello. Poi c'ho l'Inter che è 3104 e lo standard che è bello lo stesso. Stavo dicendo, ma quel Cobra ce l'hai ancora, l'hai dato? Quello, non ho capito, quel? Il Cobra l'hai dato? No, il Cobra ce l'ho sempre, quello sì. E quando vieni, quello adesso lo regalo a mio nipote, così me ne dico anche di quello. Tanto non mi piace. Va bene, dai, ci sentiamo. Allora qua, anche io chiudo, che ne sono? Meno 8 minuti, per cui è quasi ora di cena, allora praticamente non ho fatto in tempo nemmeno a salire, che sto già scendendo. Sì, l'ho dato in corsa del 25B, ho dato, va a volare quello, funzionava benissimo, è anche abbastanza nuovo, devo dire. Ma l'ho dato per una miseria, non me ne ho tenuta, qui per disfarmene, perché ripeto, a me le baracchini base non mi piacciono, solo due me ne piacciono. Il Saturneco, che mi è sempre piaciuto molto, quello sì, dal primo momento che l'ho visto, tanto è vero, io a due persone di Sassari li avevo ordinati io, li avevo fatti arrivare, ma sto parlando di parecchi anni fa. E DAC, poi tutti gli altri per me possono essere belli quanto volete, ma non mi piacciono assolutamente. Preferisco quelli da macchina, insomma, ecco. Sì, come io ce l'ho, una bella macchina, perché è molto, molto ben funzionante. Beh, io sto andando col DAC adesso, non so se te ne sei accorto, MB+5, potenza media praticamente intorno ai 15 watt, va bene, ottima ricezione, ottimo tutto, anche perché anche il DAC ha due altoparlanti, uno a destra e uno a sinistra, quindi sembri. No, Constant 25B, io ne ho uno, lo stesso, non funzionante, potrebbe interessarmi qualcosa di quello che hai tu non funzionante, quindi magari ci aggiorniamo telefonicamente, dai. Ci sentiamo al telefono, Giulia, no, non mi va di fare mercatino qua in radio, dai, anche perché sto uscendo un attimino a fare una commissione e poi rientro. Ok, ci sentiamo dopo, buona cena Giulio, anche a te, saluto anche tutti gli altri che sono in ascolto. Ok, ciao qua, ci sentiamo allora, dai, buona cena a tutti, ciao Gianni, ciao Franco, se sei ancora all'ascolto e quanti ce ne sono, dai. Anch'io chiudo e scendo giù, tanto vediamo la scena subito. Ciao, ci sentiamo. Ascolta, un'ultima cosa, accende quello tuo, il 25B? Ma una volta accendeva, adesso non so se continua ad accendere, boh, non lo so. È vecchio, non, adesso qualcosa avevo tolto anche qualche anno fa, che non mi ricordo che cosa era, boh, non me lo ricordo più. Solo per pezzi di cambio posso dire, ma non più di tanto, insomma, ecco. Vabbè. Perché il mio molto probabilmente è partito dal trasformatore, quindi devo trovarne uno compatibile a quello. Va bene, dai, ci aggiorniamo Giulio, ti saluto, un abbraccio e ci aggiorniamo, dai, che vorrà portare il cane, ciao. Ok, è proprio quello il problema, qua, il trasformatore. Sì, io ne avevo, anni fa, ne avevo fatto uno di trasformatore, e mi dava 180 volt, mi dava in uscita. Insomma, siccome l'ho avvolto a mano, chiaramente, non era molto compatto posto la cosa, perché non è che avevo la bollitrice, io l'ho fatto a mano, però funzionava, ma poi non lo so cosa, se funziona ancora, come è andato, boh, ce ne dovrebbe essere comunque, ma il trasformatore è da 180, che praticamente non è originale, era molto più voluminoso di quello originale, certamente, perché avevo fatto una trasformazione, no? Perché qui essendoci il 220 io l'avevo fatto per utilizzarlo direttamente al 220 e dunque il suo trasformatore, quello da 110, era stato eliminato. Comunque non lo so, non lo ricordo nemmeno più com'è, anzi bisogna che me lo tolgo con la linea e vediamo un po' quella. Vabbè, dai, qua ci sentiamo alle prossime, ciao. Va bene, dai, poi già ci aggiorniamo telefonicamente. Ciao Giulio, ciao. Aspetta! È beato! Beh! Le muove la demo, che è? Aspetta! Aspetta! Che belucca! Sono da cenare, là! Corsito recettivo! Aspetta, mangiamo un mandarino buono, dolce! Meglio così, sono contento! Stavo cercando che un pericolo, ma non ho la voce, guarda ancora! Devi collarmi il microfono! Vabbè, insomma me la prendo, me la tira un po' di acqua e lo fa pure. Sei via un poco di colla, Ale. Ma quella quella di alta, che alta, che alta, capito? Devo prendere il microfono che c'ho io. E a poi cosa è successo? Ma si è staccato il cerchetto dal metallo, capito? E che alto. E quindi devo incollarlo appena. Pagappa, amici, lo stacchiamo, abbassiamo un po' di potenza, ma tanto non è necessario. Vabbè, sono cose che succedono. Sono 6 anni che questo microfono che ce l'ho. Siccome è incollato, si è scollato, capito? Dal caldo al freddo, si è scollato. Ho lasciato Giovanna in terrazzino e mi sono trovato a pezzoloni di cerchetto uno. Kappa, ma ti arrivo così con pochi watt? 6910, sto usando il 2009 io adesso, quello di Giovanna. Kappa, sto dando poca potenza, tanto non occorre pompare. Già va bene così, sto dando lì, sono 3 watt. 3 watt e mezzo, dai. Ma pompare. Mi stava regalando un coso, BV2001, MK3 un altro, quindi figurati, no. E te la lascia perdere, detto. Tu 6 anni che non lo usi. Cosa faccio, cazzo? Devo smontarlo e cambiare i condensatori, no. La capelchia giusto, fa la cosa, ecco. Buttacelo e basta. Che cosa? E che amplificatore? Una valvole. Mi butto 2001 3MK3. Cavolo, ma te lo stavo guardando. Me lo stava regalando, me lo stava. Ho detto, no, non ne voglio, ho detto, guarda. Lascia perdere, ho detto, non lo vuoi stare a smontare, ho detto. Il lineare, appena l'accendo, ho detto, mi manco, ho detto, il condensatore in faccia, ho detto. Maggio sulla gara di cambiare i condensatori, se la piglia in culo, ho detto. Vabbè, se me lo dà da me me la conto, da qualcuno lo faccio fare. Vabbè, ti farò sapere. Se lui è d'accordo a regalartelo, te lo faccio avere, ti paghi le spese e te lo sistemi, là. Papà, e perché dov'è che indietro tu, il amplificatore, non è a Sassari? No, è fuori, la campanella è. Beh, già, se te rigarende, lo fai portare e poi già ci penso io a ripararlo, da qualcuno lo faccio riparare, chi vuole entrare? Antonio Bicicletta. Ciao Cla, buonasera. Cazzo, sono rientrato adesso, gioco tutto in fuso, portare il cagnone. Ma tu dove lo porti attualmente? Non ti sento mai una sera a dire sto portando il cane. No, come te la iatta? Ma la sabbia no? Te la matto, ma si cagacla. Ma non lo porti mai tu la sera, tu? Antonio, con te che giocava per denti? Io l'ho portato via. Mica l'ho portato a quest'ora, l'ho portato alle 4. Già lo sai che io esco alle 4. Te lo so, tu devi andare in ufficio alle 4. Sì, ma lo porti alle 4 e boh, poi adesso a questo non lo porti più. Quante volte lo porti? Ma sono tutto per volta al giorno, ma insomma, non vorrei rispondere male, ma a parte tutto, due volte al giorno non basta lanciare. Ho capito perché mi devi rispondere male. Cazzo, non ti sto pugnalando, ti sto facendo una domanda.